confusa. No, sono video, prendi in giro. No. Con la frecciatura di via ma grande come portasse. No, non eccessivamente. Non è nemmeno uno sferro, è un plasma. Ma quella c'ha LED, com'è? A smister, com'è? Poi tu c'ha i canali segnati, lo squelce non sta associato, il tasto centrale che non sta in mezzo fa parlare. Capa capa. E segnale niente. No, segnale non è. Usciva un po' bene comunque, quando ero utilizzavo il primo filo di macchina, no? Utilizzavo quello. Usciva un po' bene, però ti devi fermare a far parlare a chi ti guarda. Vabbè. Già andava. No, e che modello è? 5. E ha un tonnello, ne ha uno a tonnello pompolio di quei portassi, c'è un portassile, di quelli vecchi, che c'ha anche i, come cavolo si chiama, i quarti, 5 quarti, possono cambiare, e poi la antenna telescopica, e lo smitter pure c'ha, 5 canali. Sì, sarà la Fayette, o il Tokai. Non lo so. Infatti me lo vuole guardare, che prima di voi tutta messo lì là. E non me ne faccio. Ma non funziona. Negativo, non funziona. No, questo qui è... funziona alla grande. Qualche giorno va a cavare una giornata di andare a figliare. Io ce l'ho. Io credo. Sento molto bene la radio. Cavalava. Già lo credi. Sono contento. A chi è iscritto? Ok, stavo facendo la prova, stavo crepo e Luca mi ha detto che crepo, quindi non è che ti ho crepato. Sei aspetta. Ma non mi fai così, Gianni. Aspetta, che fa queste prove, mi trovo il Gianmarito, cazzo adesso. Beh, tutti quanti mi stavano dicendo che ero più forte, io, Gianni e Claudio. Quello era Giuduca De Mulda. A parte l'antenna, vabbè, l'ho accordata, ma addirittura l'India si vuole. Ho la camicia, fa modulando mi serve. No, se non chiedete. Stavo parlando io, sono detto a te. Sì, probabilmente la zona è tenuta a me che quella di là. Beh, non è capito, no, già, anche Claudio poco fa mi ha detto, dicevo ci siamo mangiato il segnale, io ho dato una contatta davanti alla stasera, sono salito, siccome c'era una perdita, mi ho messo un po' di guaina della tegola, poi c'era una stazionale, allora siccome la linea non ce ne sono più, mi ha detto, la nuova l'ho accordata fino a 1.3, sono riuscito a accordarla, 1.3, quasi, 1.2, quasi 1.3, allora addirittura ha riguadagnato quelli tanti punti. Allora, lì. Ho accordato l'antenna, ma era la protezione del 2.8 prima, però avevamo sempre l'accordatore, sempre il 6 watt sto uscendo, 4 watt e mezzo uscivo prima, 4 watt e mezzo uscendo adesso, non è cambiato nulla. Qua c'è 9.30, tu. Non so cosa dirvi, già, guarda, ti giuro, sono salito su perché c'era nella cucina una macchia e la madre mi ha detto l'altro giorno, guarda che dice c'è deve essere qualche ferita l'acqua, necessaria a controllare che non c'è qualche antenna della TV rotta, siccome non è tanto mettere qualche antenna della televisione qua, nessuno ne ha fatto nulla. Se magari sono le tegole. Tanto ma del cavolo dove l'ha fatto passare? Da sì. Allora il mio qua è tutto sotto traccia, lo. Io ho fatto la traccia nel muro, sono arrivato al solaio, ho la scatola, e nella scatola ho il PLC, mi ragazzi, c'è solo un pezzettino di cavoli, da qui a lì, perché io ho le leggi di 8, qua, quello è grosso, tipo la K100. Eppure non si vede niente. No, qua fuori non vedi nulla. A farlo qua, quella quello lì è un casino, Sì, vabbè, lui l'ha fatto tantissimo tempo fa, siccome non piaceva questo cavo a pendolo, per esempio era anche grosso, non potevi neanche attaccare al muro perché il graffetto è così grosso, non esiste, ma allora ho fatto la traccia, ho messo il tubo fin su, fino sulla soffitta, e il tubo praticamente arriva, è lungo, arriva fin dentro il palo dell'antenna, esce quasi fuori dall'altezza. Ascolta, ma fatto un buco nel solaio, no? Ma non mi pare che ho bloccato il solaio, c'è la mano in tavolo. Infatti è quello, tu l'ho spesso che fai che lavoro sul tubo, ma adesso con l'urato l'hai fatto passare. Allora, l'ho messo un colorato da 25 e il cavo ce l'ho passato dentro. Non sarebbe un'idea qua, non si può fare. Bello, tutto difficile, tutto impossibile. Gaffa gaffa, andare, su via. Cioè, praticamente quel cavo lì ha l'età di... quanta mia, quanta antenna. Sì, cioè, praticamente dal 93, 93-94. 12 anni, più o meno, come si? No. 12 anni. Ma questo cavo comunque io stasera ho guardato il PL che tra l'altro non va bene, c'è il cappuccio suo con vulcanizzante, ho visto il cavo nel pezzettino del palo, perché l'unico pezzo scoperto è quello dove attacca il PL, perché poi c'è tutto il tubo, e il cavo è ancora buono, quello che è sotto il tetto è buono perché di acqua non ne prende, quello che c'è qua non lo so perché è sotto la traccia. Ma questo è il collugato così, sia buono anche quello. Io quando li facevo, lui i lavori li facevo bene, allora mangio più gara. Vabbè, se mi sono messo nella casa tua, se non fa un lavoro del genere, se provi a casa tua. No, a casa mia si già tutto quanto l'impianto ho fatto, io per il posto. E sono dei tubi vuoti, dove può passare di tutto, perché io ho impianto terrestre, satellitare. Ho satellitare centralizzato, io ho quattro camere indipendenti. Gaffa. Quando sarà? Quando ci sarà il flash, che farai? Ma guarda, stavo pensando, l'altro giorno l'ho anche vista, ma la stavo comprando, una bella antenna per il ricevitore, siccome il ricevitore, un bel discone, il ricevitore lo volevo comprare, tanto quello non è che ingombra molto lui, mi sa che me lo prendo la settimana dopo Natale, quando riapro e me lo piazzo, almeno quello. Ma le smonti da matto, va tutto? No, ve l'ho piazzato a casa mia, mi sono piazzato qua. Vedi tu, vedi tu, vedi tu. Vedo che già si piace, la gente parla ancora malattia. Quindi vabbè, ma ci vuole troppo il tempo, Lu. No, me lo voglio piazzare perché ho ricevuto che non lo utilizzo quasi mai, poi con la sua antenna in gomma, che dicevo anche, poi intanto ascolto. Tanto l'antenna che prendo io serve anche per trasmettere, è accordata anche da fino a 1800 MHz, quindi... Beh, un amante va però, per farmi sentire, magari arrivo a 3, 4, che su arrivo, arrivo. Ma cosa sono portato? Portante? No, anche se sono una portata, non so. Sì, io ho lavoro di 3.000 io. Il portatile, ecco. Ah. Però anche io sono portato. E io ho proprio il fatto del fisco. Lo sai cos'è, però il portatile te lo puoi portare appresso, se te ne fissa no, perché ti ingombra. Niente, ma intanto per ascoltare me, già, no, senza esagerare troppo, c'è questo momento dell'alimentatore, sempre andando in casa, mi bara noia. E io ascolto un po' quando ci sono l'internazionale, quindi mi scarsa, mi fa qualcosa così, però non si fa. No, ho messo l'alimentatore sul pensile e c'è sempre l'avvento, ogni tanto si attacca, perché c'è molto caldo qua dentro. E anche qua, io so che è l'alimentazione, che mi sono fatto, come hai visto che mi hanno allora? Forse sì, no, io me ne sono comprato uno nuovo della Lafayette, un 30 ampere switching, piccolo, poi c'è questo vento, la grappa mette la durezza o automatica, ma l'automatica è veramente, va di la matrice, lui la sente, sì. E dal gioco mi fa, no, quindi è silenziosissimo, proprio non si sente nulla. Ah, va benissimo, guarda che questo qui 10 ampere, ma la forma è 4 e mezzo, là. 5. Ma io per avevo questo qui perché era, mi era utile avere qualche ampere in più, se volevo mandare a faccio qualche altra cosa. Non è che faccia così tanto macello, perché va sempre piano piano, però mi ha chiamata la non mi ha fatto sentire il rumore, e che si sta, attacca, mi girano. Sì, ma adesso non c'è bisogno della vento, ma della vento. Che è freddo. Ma lo so, ma questa non la puoi escludere. O la metti fissa oppure in automatico, come adesso, intanto ci attacca. Ma quando aggiungi una certa gradazione si attacca, non so. Ma no, come deve essere la temperatura? Bianco. Esatto. E volevo chiedere a Antonio, ma a vedere ancora se... se prima di questo palacchio, se dei palacchini è 20-35. No, lo sai che hanno. No, tanto io non mi ha fatto, lo sai. I miei apparecchi sono nuovi, come me li compro, insomma. Quello di microfono è l'R700. No, questo qua no. Questo è quello l'altro di quello che costa 25 euro. Ma quello mi stai dicendo che c'è la regia, quello lì è. Cosa l'hai comprato? Questo è quello che usavo in macchina prima di avere la ricetta, ti ricordi? Ho visto. Ma c'è la Zilo o la quadrata, la batteria? La Zilo. Ma la Zilo, consuma pochissimo e va bene. E quant'è adesso? La 4. Non la vedere? Così a dici, guarda. Buon passaggio. 1, 2, 3, 4, 5. È un bel forte. Ah, va bene anche a 10. Va bene. Non è fatto la radio. Negativo. Va più che bene. Io lo so, è un apparecchio che ho trasportato in 4 baracchini. Va benissimo, già. Meglio un attimo di male, ma ci metterà a 9, dai. Ma se la faccio a 10 va bene lo stesso. Come fare là? Benissimo, lascialo così. Infatti poco fa l'applicato non si sentiva. Adesso sì, è un bel pure. Ma faccio uno sommato io. Prova. Sì. 25. Di due segnali l'ho mai fatto. Capitano, sei sul più, non sei più 30, allora certo che mi arriva sul 3, adesso è al 3, dai. Io dovrei arrivo sull'1, ma... Sì, sì, cioè, se mi ero volati anni, fai, rifai, classe. Ehi, uguale, uguale, no, dai, ma c'è qualche puntino in più. No, no, no, la chiamata è ma leggermente più bassino, ma poca roba però. Già va bene. Tu ce l'hai più molto più vicino. Quindi io per la distanza che ho, ti ricordo che sono a minimo, quindi potrei superarlo quel segnale. Va bene, ci sentiamo dopo, buon proseguimento. Comunque già, usa quello, il microfono che va benissimo. Rientro, poi devi stare attento perché secondo come ti rientra lento ti fulmina il baracchino. Quello di macchina già, va bene in macchina, punto e bu. Allora, e poi tanto lì così, se no vanno sempre problemi, ti chiuso il 231 a casa, il 132 è come il 131 però c'era del lavoro, è transistor, va bene, però secondo me ci metti. Però io avevo un alimentatore solo per lui, un altro alimentatore solo per l'apparecchio, e poi c'è il rischio che rientra nella frequenza, non riesce a accordarlo, il numero 131 meno male lo accordi, non un po' gli accordi, quello lì è automatico. Qui ce l'attendi, è un signo per me, non ci sono varianti. Valvole. Io ce l'ho buttato lì in un angolo, perché ormai è tanto tempo che è in un angolo accatazzato, era quello grosso grosso verde con spesa per quintali nata lì, si vuole due quintali, basta nido la terra e hai due strumenti, watt, non mi ricordo qualcosa, poi ci sono trovate con le manopole per accordarlo, è grosso comunque, c'è un trasformatore dentro che non finì più. Esatto. Io ce l'ho questo qui, se qualcuno vuole essere per qui ti glielo regalo pure, a me non me ne costa niente. Grazie a te, io ti darò. Addirittura anche le macchine, la PVC 1000 addirittura, come è stata con il B300, si scaldava, come la toccava in mano, non prende. E allora quello che scrivono sono fesserie, qui addirittura è passato di un FM, c'era una macchina da uno, c'era un certo apparecchio attaccato. E a Fabriano fu, io mi ricordo benissimo, ho visto l'antenna di coso, te lo ricordi io, Natalia, a Vittorio Giove, quando mollava la Monte Oro, la bobina completamente sciolta, la tacco il piede non veniva più, mi hanno potuto mettere un morsetto e ho chiuso il capo lì. Ah, non si sì, e lì si deve andare, non l'aveva combinato, perché si deve stato una cosa. Per Vittorio Giove è un tipico, tu già lo sai, è un perito elettronico, è un macco. Anche se mi metti un B300 va in crisi, io l'altro giorno mi stavo provando un apparecchio e ho un paio di carichi fittizi, ne ho uno da 100 watt, uno da 500, uno che arriva a 1 kW, uno che arriva a 50 watt. Mi sono dimenticato, passo in mano laterale, come se c'è un faccio fatto e vado. Io me l'ho dimenticato, sono andata lì, che vado, ho dovuto aprire e sistemare uno all'altro. Lo so, ma voi non avete quello che ho letto, io ho letto che tiene 2000 watt, quello che ho letto ti sto dicendo, se non andiamo un attimo non lo faccio leggere. Sì, già messo la cosa con te, ma tu puoi leggere anche che tiene 4000 watt, non tiene neanche 500 watt effettivi, ma ne manco del vento. La soddisfazione, porta la macchina alla tavola, ci ha attaccato il 440 dentro la macchina e lui mette la base dell'antenna e già inizia a scaldare, va male. E lei non ha la via di antenna di 440. Ma te lo sto dicendo io, avevo un'esperienza già vista, già vissuta, già, non te lo dico per così, non li tiene, non li terrà mai. E se sta una carica troppo figlia, la carica e gliela fatta di cibo d'acqua, anche se Domenico Peroncino, te lo ricordi Domenico Peroncino Natalia? Aveva la PLC 1000 col B550 in macchina. Beh, io ho dovuto io modificare il cavo perché glielo faceva molle molle quando prendeva la portante. Certo, intanto non ho voluto modificare io l'attacco del contrappetto e mettergli il cavo rosso perché glielo facevo a mano e glielo facevo in gomma. Solo con il modulato in 2 minuti lo pugnavo in mano, lo gavo, ma una matta se la riuscì a mettere mezzo un pugno. Yeah, man. centro Cascosta, la 20esima. È una vena uramacchia, ho sparato. E quindi per la gente la macchina, ma comunque la regina della macchina, la macchina della regina che fa la vita, di bozze, di cose, non la fai aiutare, quello sì. Si chiamano di tavola. Ah, vero, scusa, di tavola. Vai, caro. stavo per aver visto, adesso già ne parla a fare le connessioni, me ne rubato a volo. Sì, non se ne fa più, se ne fa più, se la resta qui. Non me ne frega a volo. Se ne è in giro, sì. È già troppo che ho fatto quello per me. Ma sai cos'è? Non è che sia così ignorante da non saperlo fare. È che ho la paura che magari rovino qualche cosa, capisci? Quella paura lì mi blocca. Anche per quello, scusa, là neanche in bagno dovreste andare, perché magari facendo forza potete rovinare qualcosa. No, no, in bagno so come farla qualcosa. ma se te lo sarà bene. Non sono morto. Bravo, Stefano, hai finito di fare spartiti musicali. Certo che ho finito, però. Se ne sarà proprio fino a poco fa. Cosa stai incidendo qualche cosa? Il disco sto facendo, il disco. Ma davvero? Mica sto scherzando, scusami. Ma faccio il tuffo il complessino. Sì, mentre siamo. Allora, ho capito. Ma dentro il già che aveva altri complessi. Hey, gli piace l'agnello. Infatti si vuole chiamare la salina. Per la bestiaia. Non si in carrozzina. Raga, che tu sai niente in Italia, non stiamo facendo questa legge. Ecco, ma lo sai tu che è meglio più fortuna, no? Lo so. Fanno gli spettacoli. I ragazzi fanno lì, si travestono perché... Allora, scusa, lo spettacolo si travestono e fanno... uno spettacolo, non che so, mettono un disco di Loreghino, per loro si mettono a cantare, fanno finta di cantare, ma non cantano, capito? Si truccano, però questo ne fanno, ballano, fanno finta di cantare, e tutti applaudono, che bello, ahi! Sì, playback, poi se ti adocchiano, ti vanno a bere, se ne danno la fine tua. Ai ai, cosa? Sì, una volta sono andato. Non c'è problema, no? Non mi preoccupo io. Ma Stefano, le persone no, non li lascia. Ehi, via. Stasera è venuto qualcuno di Porto da trovarmi. Oh, yeah. Perché Cristian, non vuoi mai finito? Armonica. Quella settimana ho detto che quella persona di cui stavamo parlando la stagione in macchina, ti ricordi che tu hai chiamato un tuo amico da telefono? È in terapia in un centro. Così va. Mamma mia. C'è pure un la lenna che era sporca, era piena di ossido, la batteria era inchiodata. C'ha il supporto batteria in cartone. E poi per reggerla c'è una chiusura di nottone. No, questo è grande, il circuito non è piccolo. www.giannicaldo.it. Guardi, forse si è spostato appena. Oh, mamma mia, mi cresta la 10. Ne ha 6 totale, fine. baracchino mi ha dato, mi devo andare fuori, come ho fatto, te l'ho detto, e invece mi ha portato questo stamattina. Gianni, Cristian, sei anche tu, mi sa che sta dormendo, eh? Perché Gianni se n'è già andato, mi sa, oh, è sceso i catalissi. È un'amica mia, mi ha promesso le ragoste. E via, è venuta stasera a trovarmi la Porta Torres, mi ha detto, ti porto le ragoste che ci sono fresche fresche. Ah, mi ha detto, tagliami le antenne, se no mi... No, lascia che mi metto sul tetto. No, mi faccio le antenne che... Le ragoste. Guarda Cristian, alza la voce. No, ho capito. Ah, ecco qui, sì, no, sì, è un verticale la metto. Sì, ma te ti va. Qui c'è bisogno. Metto 5 stelle? Sì, cosa metto? Non so niente attaccato adesso. Cosa c'è? Mamma mia. Se mi descrivo un guasto. Sì, basta, perché ridere. Sono innamorato con lui, ma per carità se sia dov'è? Cosa? No, confermo. No, sì, lo capisco male, però se non lo sono morto io non lo sento bene. Adesso ho capito. Sì. Thank you. cercando la frequenza. www.genicaldo.it. Sì, mi apre. Cos'è Natalie? Io sono l'antenna passato, sono passato. È un bel Christian. Già, ma il bimbo si sente? No. Come no? Si è attaccato, guardate le modifiche che ho fatto allora. Guarda, vedete. Sì, adesso sì. Dai. Ah, già si sente adesso. Sì che si sente. sì. Ah, lo sento con le cuffie, vediamo, vedi. Smogliose, lui si sente? Sì, è bello il tuo. Hai quante cacchio ne hai? Uno ne ho, oh, quante ne ho. Aspetta, lo tolgo. Sì, eccola là. Ma ce n'è un altro col bifficchè? Ma dimmi una cosa, Cristian, perché a volte mi dai 5 con la radio senza amplificatore e invece con l'amplificatore mi dai 9 più 10? Ma che radio hai? E mai poi ci mi dai 5 ma c'è 9 più 10? C'è quella di Pinocchio. Ah, ho capito, 9 più 10. Vediamo quanto ti arrivo adesso con l'altra, radio. Adesso spengo il baracchino e accendo il 440, vediamo quanto ti arrivo. Questo è con 400 watt. Vediamo quanto ti arrivo con l'altro. Sì, attaccato. Sì, sì. Proprio di arrosolimento. Ciao già. Ciao. Domani mi portano le ragoste, le battango a me. Domani me le portano, gli ho detto, come vuoi con le antenne senza antenne, gli dettaglio, gli ho detto, no, ma se sai che mi servono le antenne. Poi mi metto la radio dove siamo, te ne busta quella persona là. Quella persona là che tu conosci, sì. Ah, faccia. Bene, bene. Io, ma la cosa è vivere, non ne ho mai mangiato, è vita mia, lo sai. Beh, ma non vivono. Vive, ma bisogna cucinarle. Dove ne ho fatto una l'altra sera era un chilo. Oh, no, io volevo di vivere nel senso fresche, là. Le ho mangiate sempre sul gelato. Oh, queste sono fresche, fresche. Ma se la presenza... Cristia. La presenza del scorso, del... Ma, del sabro sardo. Ma lo passi intanto qua. Io ho capito che volevi sopra, ma no, non lo passi. Ah sì? Ah già, non lo passi. Vai, fatto un brutto, vai, non lo passi. Ah, ma già. Guarda, la pugnalata alle spalle mi sta varando. Ma io ti ho chiamato qui, ti ha chiamato il numero basso, non è che ti sta facendo modulando. Lascialo cantare a questo boioso. Forse? Sì. Ma sapete la fase dell'età del fabbro sardo? Abbrossato, no. Se vada la moglie dice, ma tu hai già mollato tu caro. E lì, sei un... Ma che? No. Già, non so, mi sono già capito. No, mi sarei grosso. Sì. Noia, noia. Vai, fatto un brutto, va. Aspetta. Vai, ho già crepi. Aiuto. Prova, dai, 1, 2, 3, 4. Prova, dai. Sto Stefanino, annientato. Prova. Prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prova, dai. Cambio, cambio. 150. Passa, stessa. Ma. Ehi. E come può passare? Ma dove faccia? Ma stai scherzando? Ma tu stai scherzando? Vai, nasca lì, vai. Allora c'è qualche problema. Esci, quello di polo gioco. No, no. Io non lo sapevo. Di polo sono, la scusa è quella. Aspetta, fammi cambiare l'antenna, te lo dico a gasosa. Sì, cambia. Col di polo a te, che ho cambiato radio, ho sbagliato antenna. Ma se fammelo mangio, aspetta 2 secondi. Non lo so. Sì, perché ha aperto per lui, no, per Cristian. Tu ti arriviamo a bomba, siamo tutti fuori. Aspetta che sto attaccando la soponente, aspetta. Sì, certo, con che apparato sì. Bravo, vero, come fa sopra? E che apparato prende? Smita, ha di vicino a te. Ah, quello che è all'antuno. numero di quinta mano, se vi serve. Allora, come si chiama? Full car di programma. C'è la barra di autino. Colmar, c'era il piccolo 30. Ancora? No. Ehi, ma questo lattolino apparisce così? Oh, tanto classica, giusto. Ah, già. Sì, sì. Ah, apparisce Natalino con l'antenna grande, Prova, però, parla, prova. Parla, aspetta, non parla. Parla, parla tu, futurini, che sto parlando anch'io. Non... 3, 4, 5, per la radio, per la radio, per la radio, cambio, cambio. Sempre faccio stessa. Da come fai a dire che faccio a Stefano? Da te se schiaccio la portante con il polo e Stefano non ti sente più. Ah, sì, sì, io lo stesso. Allora io fino in nida, vai, e fate più un provvedito, ma io già giri di te, ma se faccio la Cristian, come fa a facciare qua, non ho capito io. Ma non so già, mi ti faccio la parte tua, Peppa non lo so, Peppa. Ma anche nel radio? Sì. E allora ci butto tutto, correti per me, va? Per me ci butto tutto, guarda, se da te faccia Stefano, io ti regalo un HF. Eravamo d'accordo. Noioso che. No, ma perché mi sembra molto impossibile, capito? Con la potenza che sto usando, cioè non ce n'è per nessuno. Bene, già demolito. Demolito? Cazzo, mi sono fatto bianco. Bastardi! Ti sta bene, così impari! Bastardi siete! Per me non fare avere la maniera della potenza! Cazzo di maggi, anche bastardi adesso! Entri fuori! Cazzo non ci credete, mi sono fatto bianco, ho detto, cosa è successo? Senza antenna sto uscendo! Beh, qua tu non lo vuoi sapere, guarda l'intera che c'è tra di noi, nessuno sapeva di fare... Ci siamo capiti al volo tutti e tre. Cazzo, sono ancora sudato. Ehi, allora. Noi dobbiamo fare ragazzi. Ok, voglio vedere a te con la potenza sto usando, cioè, ma buffonendici, mi sono fatto bianco, Mia moglie mi ha fatto rimontare un microfono una volta. Stavo salendo dal professore e mi ha chiamato per dirmi di andare a prendere i bambini. Che stavo uscendo un bel basso, come mai? Prendo e smonto il microfono contro la batteria, contro tutto quanto, poi dopo che ho fatto tutto quanto mi metto che stava scherzando. Vabbè, no. Vai, vai te. Vabbè, oh. Un minuto mi prendo la birretta, o la faccia vostra, ripeti la tua. Vai, un briancone, prendi, si rialzi. Cazzo, io mi bevo un po' l'acqua, mi avete fatto via la meningite. Un ubriacone. Un ubriacato si sta. Non mi sa, Flavio, continui di vedere la pressione. La meningite mi devi. Se lui e io lo sapevo, mi scatta, non è possibile avrà pensato. Ma poi mi sa, se conferma anch'io, quindi ha detto che già non mi dice che c'è niente, mi dice la verità, quindi... Ho visto così e poi su questo eravamo d'accordo senza esserlo. Ma perché non mi avete sentito di dire che passava sempre stessa? Ma no, io non ti ho sentito la stessa, io non sono sentito nulla, io ho pensato di fare così e ci siamo accordati. Come facevano per fare in casa da falso? Sempre cani molti siete però che io che ho detto scherzoso e ci torna a baciare ci la mazza lì in varia. Ok, meno male ci sei tu a darmi conforto carissimo. E ora di 9:20 a te che sei in croce, ma il mio problema era, ho detto, ma se io sono più in alto, quello là è a Canica, Natalino ce l'ho davanti, Gianni ce l'ho davanti, ma ti vado a passare. Ma quello che fai ci sei? benissimo, stavo salendo sul tetto con la pila. Cazzo, se mi facevate salire sul tetto a prendere freddo ve ne mangiavo le orecchie. Sì, sì, ho detto che avresti fatto sapere che non era vero, avremmo tutti confermato che era vero, che non passavi. Sì, sai che te la sotto che stai ridendo? Già passava un di solo, io gli ho detto di no, però già un di solo gli passava. E allora? Ma si è puntato su di voi, di polo, io lo credo. Magari da lui arrivavo più basso, ma... Dimmi. anch'io. Io sono stanco, sì, sono alle 4 stamattina in piedi. Sì, è vero, sei stanco. No, infatti, non ci penso. Ore 4 vado a vedere col computer, che ci stanno facendo, passando. Solo per oggi che lo potevo fare. Non auguro una giornata di lavoro a nessuno come l'ho passata io oggi, specialmente, guarda, lagrima. Perché? Hai fatto le cose di natalizia, vedete? Cesti, panettoni, pandori, sfumanti, di tutto un po'. La stare sto guardando, oggi una messa che andando, un po' mi chi minando, però non so che guardare le case. Se ci sono delle fanciulle già le guardo, ma le case proprio non mi interessano. Adesso me la canto. Sì, tanto non ti sento perché c'ho le cuffie. Sì, adesso la telefono, ragazzi, io ho visto. Ah, che peccato, ragazzi. Telefono, rispondo io. Sono lì, il portatore si è già trattato, quindi non so come non viene. Ah, è vero che tu c'è la zia. Eh? Ma come c'è una nostra cugina? Boh. Non vuole presente, Cristian. Sì. Sono la fortuna di tutti i giorni. Boh. Per me? Sì, che sarà mai 20 anni. Sì. Già vanno bene per me. Dopo di tutto sono già vecchie e tu mi dici da 20 anni. E beh, allora me le puoi presentare che vanno bene da te. A me aspettano. Perché noi abbiamo bisogno di aspetto, vero? E beh, come tu hai detto, non sono già andiamo a ammantarci. E se lui mi ha ammantato è tutta. Io di ricattarci. Ammantiamoci. Aiutati con la manza, gatta. Non so io. Cosa qui? Ma che dobbiamo fare la scappatella prima di andare a lavorare là? Ah, credevo se ti volevo come ragazza. Come sei singa? E poi? E poi sono rollato come lottare. Tutto nel baffi. Sembra siciliano, ma lo... Thank you. Quest'anno abbiamo fatto 8,50 perché avevo poche possibilità. Allora, stiamo mettendo in cucina. qua al vino che faccio io al 440 per 2. Ma c'è una salita? Sulla luce. Fattano no, tanto me la paghi, ma hai fatto venire attacchi stretti, ci gioco ancora sul caso. E questa è una lezione. Mi piacerebbe averlo, la verità. mi piacerebbe, ma rischiare per niente non mi sembra il caso. Io ce l'ho 440, se tu ti fidi, basta venire a prendere, lo sai, non è un problema per te. Già lo so, fra. No, scherza, non va di luogo di nuda, no, che ti subiero io roba, strumentazione, questo, quell'altro. Io non so cosa devo prendermi. Il mio sogno era prendermi in garage Saturn Echo, perché lì aveva tutto, aveva frequenzine, aveva Echo, aveva quello, tutto quello che piace a me. Non serve, è un bar razzone. È quello che mi piace della stagione del base, a me che sia un bel apparecchio, un bello mastodontico con tante manopole, ti ce n'è migliore. Un bar razzone, avevo avuto il mio bar razzone. No. Benissimo. Ma quello di te sarà una bella, infatti me ne sono mezzo pentito di non averlo preso io. E mio la verità usciva bene, eh? C'era anche la MP5, e usciva veramente bene. Ma è un barrazzone, è un affarico per 27, capito? Ci sono un barrazzone, mi. Brenta, non so, la scheda del Pluto, del Galaxy, di tutti i Dome, tutte uguali sono. E a me infatti mi interessava il G7, non mi interessa altro. Allora, la bandiera di amatoriali, le lascio a chi c'ha la patente, tutto lì. Io so che lo puoi tenere, qua c'è da fare che radio amatoriale con la licenza di sei tu. Capito? Perché hanno cambiato le normative, Ruboldini. E le ricevitori, sì. No, apparecchio radiotrasmettente c'è scritto. E dove l'hai letto questo? E si mette il vostro DG. Se ne giochi 200 euro. No, io con una, io non sto insistendo, ti sto chiedendo dove l'hai letto, tutto lì. Nelle normative del ragazzo l'ho letto. Se te lo sto dicendo vuol dire che lo so. E io ma tanto puoi fare solo ascolto, Natalia, anche se lo puoi tenere. Non puoi fare ascolto, non puoi entrare nei 27, né puoi entrare in maniera di amatoriali, perché non sei un amatore, per cui che cosa te ne fai? Ti serve come ricevitore, ma tu sei SWL? Sì. E allora lo puoi tenere, e ti serve per ascoltare le bande radioamatoriali. Se no, KSWLZ. Le bande radioamatoriali posso ascoltare anche con il ricevitore, cano. Ma cosa? Ma non puoi ascoltare la 30 però. Cioè, forse quello che è più sì, però bisogna avere accorti di 40, l'80, i 20, i 10. Adesso non lo so se quello che fa, quello che è. E fa da zero in poi. Beh, gentaglia. Io me la vado a caricare. Qui c'è freddo, sento questa serietà qui, sono a un gancio, praticamente. Vedi se la comodità di averlo vicino al letto qual è? Che te ne vai sotto le coperte, parli, tranquillo, non c'hai freddo, sei a calduccio. Beh, io lo so, ma no, se mi metto a letto guardo la televisione. Non mi piace molto bello a letto. Provo. Non mi piace. Preferisco stare qui davanti alla radio e guardarmela mentre mollo, fare altre cose sul computer, insomma, preferisco stare così a letto è diverso, lo trovo diverso, vabbè, per tutti siamo abituato. Ma basta, mi stai incorrettando. Ma poi riprendi, faccio un altro giro e poi me ne vado. E capa, tanto è tardi, me ne vado anche io in CRT, dai, che sono ancora caldo, ma ho solo la febbre sicuramente. Bravo, caldo sono. Bravo, saluto tutti, cordialità, no. 33. Ah, è la salita il caldo, ciao, ci sentiamo, buonanotte. Sto la febbre, ciao. Sto caldo. Sì. dai, mi saluto io, ci sono i piedi ghiacciati. Vabbè, Gianni, Claudio, Natalino e Cristian, saluti circolari, 73, meno 51, e ci sentiamo domani, per me corre sangue, esecutivo, conto finale e chiudo, ciao ciao, riprendi Claudio. Claudio, non riprendere, prendo io. Ciao Stefano, ci sentiamo. Fate un focarello adesso, mentre lo metti sotto e i piedi sotto, così ti riscaldi bene. Calpa, dai. Vabbè, buonanotte, ci sentiamo domani. È stato bello sentirci, per questo ho fatto... è stato uno dei migliori di questo periodo. Quindi siamo anche divertiti con Claudio. Quindi mi ha fatto piacere, là. Avanti, qui. Adesso sono qua e sto leggendo una rivista, vi sto ascoltando. Ciao a te. Eia, eia. Cristian, noi siamo sempre gli ultimi che cadiamo, noi siamo arrivati in internet fra poco, ma come chiudo qua, attacco l'apparecchio. Mi guardo un po' di quello che c'è di nuovo, se c'è qualcosa di interessante, tanto devo incassare, non so come spenderlo. Guarda, noi siamo solamente bimbini, però mi avete salutato, siete dei bastardi. Non avete salutato Natale, ti ho detto anche, perché ti ho detto che avevi chiesto tutto caldo, ti ho detto ciao Natale del caldo, buonanotte. Sì, tu solo, ma gli altri no. Vabbè, va, ciao a tutti. Alla prossima. Certo. Ci state collegando tutti? Oh, non lo so, io con uno non parlo. Se sei stato cercando di mi sapere di lui. Già, io sto leggendo che mi hanno mandato la radio rivista, la sto sfogliando così, visto che ancora non c'è sonno. Vai, vai, guarda, non c'è problema, io mi metto in internet adesso, non c'è problema. Ancora qualche giorno e poi appena è pronto il computer, accendiamo, mi sto preparando il computer per internet. Ho già comprato quello che ci vuole, ADSL e tutto, appena è libero viene, mi collega tutti. Io penso dopo Natale anch'io ci troveremo in chat. Ya siamo MSN, così almeno. MSN. E qual è tu? Io sto mettendo la DSL, quella col modem. Come te la DSL? Sì, c'è la DSL anch'io, ma MSN è un programma, capito? È un programma dove c'è la posta elettronica, c'è tutto quanto, ci sono le chat, eccetera, eccetera. Ehi, adesso colleghiamo tutto. Metto il microfono, tutto, così ci vediamo, ci salutiamo. Sì. Io l'ho fatto già da anni. Ecco, lui era quello che sentiva il computer, lo sai, lo vedevo come se fosse il baracchino. Quando facevo quelle cose mi sembrava di essere al baracchino, dicevo, cavolo, ma perché è morta la frequenza? Mi chiedevo sempre perché. Già, perché è morta. Anzi, la fortuna è che stiamo cercando di rimettere un po' i piedi. Infatti. Adesso a Natale magari qualcuno se lo comprava apparecchio, prima si faceva tutti i ricordi a Natale, tutti i bicchieri entravano, oh via. E infatti per dire mi sembra una chitarra ragazzo, guarda chi non tuo padre a Natale. Ehi, tutti i bambini entravano, ragazzini, faceva un casino vero, via da voi si stufava di chi rimaneva abortante, così del genere, si stufavano subito, ma non avevano più sapere. E poi mi ricordo un anno a Natale con Antonio D'Alessio, eravamo sul canale 14 e c'era questo attaccato a casa mia, al mio palazzo, forse adesso mi ricordo, pronto, di Antonio, ma magari è uno del pronto, e ci avevano tutti questi walkie-talkie che ci mettevano a parlare nel canale 14. Sì, è vero, entravano, io li ascoltavo quando ero bambino. Me l'avevo regalato e li ascoltavo e già da allora ascoltavo, mi piacevano la radio, te li immagini? Se lo stesso io già avevo un walkie-talkie, un canale a portatore del Coronetto Toccai, presidente che era Brancaleone allora, Corsaro Nero, Dottor Zivano, tutta quella gente lì che erano molto anziani, io parlavo con loro su un canale. Io la prima ricezione al posto di trasmissione e l'avevamo aperto e da un baracchino ne avevamo messi bene e lasciavo così fatto che la padre non riusciva a cavare le piedi e probabilmente gli aveva toccato i quarti, ma usciva che era un amore e poi l'avevo venduto a Tango Mike. Questo apparecchio qua, Tango Mike significava tutto matto, l'avevo messo io, l'avevo venduto la vacca di Lina, anzi l'avevo pagato 15.000 lire, lui l'avevo venduto più di 40. Lo so, comunque erano baracchini buoni quelli, no, non si scherza. Come stavo dicendo, io ce l'avevo un po' in sei canali, figurati, con la ricezione dal microfono. Allora io li ho conosciuti quelli lì. Rimaneva piccolino, il pony, piccolo e col microfono incavato. Ehi, ehi, fai una gommetta di chi ci va a fare il bagno. Ehi, della doccia. Non c'era vero, che eppure parlavo con quello, a posto ci avevano i canali che ci avevo, si scontravano e parlavano con me. E poi come incazzavo quando sentivo splatter non potevo entrare perché non c'avevo i canali che parlavano, capito? Allora a Natale mia madre mi aveva fatto comprare la paglietta KB23 e quindi c'avevo 23 canali e stavo iniziando a fare il gioco, 23 canali con le tarme più due da tavolo, avevo comprato la scarpa in via Cavour, fate un conto. Che cosa, il macchino? Allora, la scarpa in via Cavour, anzi era Pintus e scarpa, in via Cavour l'avevo comprata. Avevo pagato una vacca di Dinà, me l'aveva regalato mia madre e mia nonna. Esatto, prima erano Pintus e scarpa che mi ricordo io anche. È vero. No, io ho cominciato, ma Maratini ha avuto una sciarada, proprio qua, se avessi avuto soldi, adesso vi ho speso i baracchini, guai, milioni e milioni. Un bel soldi, eh. Vabbè, già là, spiego tutto anch'io. Adesso ci metto a posto questa rivista, poi domani me la guardo con calma. Mi fa piacere aver fatto due chiacchiere, dai, queste prove dovevo farle, adesso so che l'amplificatore si può attaccare con questo qua e quindi l'antenna va bene, perché ho visto che va bene, con l'amplificatore non gli ho chiesto, senza amplificatore vabbè, non c'è problema. Ti saluto, dai, buonanotte, saluto tutti e ci sentiamo alle prossime. Bye bye. Buonanotte, salutami anche Scorrea, ciao ciao. Avanti, Cristo. Buon Cristo se dormindo, ciao ciao, buonanotte a tutti, a domani. Ciao, ciao, ciao, e a Cristian mi ci metti in casa a salutare, ciao Cristian, ciao, buonanotte a tutti.